Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Il fiorentista di Acireale in forza alle fiamme gialle. La prima stoccata è di Daniele Carozzo. Sì, attacco. Decima. Attacco di Daniele Carozzo. Guardate come aspetta il momento giusto per tirarla. Carozzo va ad esultare, ma il presidente di giuria non è ancora finita. E c'è la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Carozzo è campione olimpico. Un oro, tre argenti. Beh, non è che la scherma italiana da Rio non abbia fatto bottino, alle ultime Olimpiadi. Però, dalla regina del nostro medagliere olimpico ci si aspetta sempre di più. Ebbene, oggi davvero una puntata particolare, Olimpia, perché buona parte del nostro medagliere sudamericano ce l'abbiamo qui nella puntata. Al mio fianco abbiamo Enrico Carozzo, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille. Che è tornato da Rio con l'argento nella prova a squadre di spada e in collegamento. Ben trovato Daniele Carozzo e grazie di essere ospite oggi a Olimpia, la città dello sport. Grazie a te e buonasera a tutti. Daniele, che fratello di Enrico, ha conquistato invece l'oro nel fioretto individuale. Senti Daniele, toglimi subito una curiosità, ma io vedendo su Wikipedia, lo ammetto, ho visto qualche appunto sulla tua biografia e cose varie, ma come nasce questa cosa, questa frase, nato a Catania secondo il suo gruppo sportivo o ad Acireale secondo la fede scherma? Risolviamo subito questo enigma, dove sei nato? Diciamo che questa è una bugia bianca che ho detto in occasione delle Olimpiadi, perché quando ci hanno detto dove eravamo nati, io ho detto Acireale. In realtà sono nato realmente a Catania, però volendo diciamo far apparire, no, nelle immagini televisive che io fossi proprio di Acireale, nato ad Acireale, ho preferito dire io che ero nato ad Acireale. Ah, ecco, quindi mistero svelato. Beh, di Acireale chiaramente anche Enrico, che però sei un po' diventato milanese, no, da quello che ho capito. Io vivo a Milano ormai da 4 anni, ho iniziato anch'io come mio fratello ad Acireale. Io la bugia bianca non l'ho detta, ho dichiarato di essere nato a Catania, però anch'io sono molto legato alla mia città e tengo anch'io a dire che sono acese piuttosto che catanese, anche se comunque ormai diciamo siamo molto legati alla Sicilia in generale. Io vivo a Milano, mi trovo molto bene, anche se è chiaro che la Sicilia a casa mi manca. Manca anche un po' quell'oro che è sfuggito in finale a Rio. I francesi sembra davvero di un altro livello su quella pedana. Che sapore ha quest'argento? No, beh, un argento bellissimo, un argento guadagnato, un argento che viene da 3 anni di lavoro incredibile. Noi abbiamo sacrificato sportivamente tutto e questo argento ce lo stiamo godendo. È chiaro che quel giorno i francesi hanno meritato la medaglia d'oro, però a me piace dire, perché credo sia la verità, che nell'ultimo anno e mezzo noi con la Francia abbiamo più vinto che perso. In linea generale non siamo assolutamente inferiori alla squadra transalpina, quel giorno lo siamo stati, quindi complimenti a loro, hanno meritatamente vinto. Tra l'altro voi della spada, quando scendete appunto in pedana in squadra, tirate sempre fuori un qualcosa in più. Mi viene in mente anche l'esempio di un grande campione come Paolo Pizzo, no? Che un po' del team di squadra è considerato il capitano, l'anima, proprio perché nelle prove di gruppo, nelle prove di team, tira fuori forse il 110%. Sì, lui è uno molto diciamo un agonista vero, e quindi quando c'è, noi diciamo per scherzare, l'odore del sangue, lui tira fuori tutto e anche più di quello che ha. Sì, a squadra abbiamo reso più, diciamo, più che individualmente. Lo dobbiamo probabilmente a un gruppo che si è formato grazie anche al contributo di un nostro conterraneo, perché anche lui è siciliano, ma che fa il mental coach, che ci ha messo sulla retta via e ci ha fatto tirar fuori questo 110% di cui tu parlavi su Paolo, ma che comunque vale per tutti. Probabilmente questo è il segreto della nostra squadra. Daniele, ci è voluta pure parecchia testa invece per arrivare a quell'oro individuale che oggi, come appena poche settimane fa a Rio, ammettiamolo, è arrivato abbastanza inatteso, perché comunque anche il lotto degli avversari era di un livello considerevole. Sì, assolutamente, il lotto diciamo degli avversari era molto, il livello era molto alto, sapevamo che vincere una medaglia sarebbe stato difficile. Adesso ultimamente, proprio in questi ultimi anni, il fioretto è molto globalizzato e il livello si è alzato in tutti i continenti. Basta pensare che in finale, nei quarti di finale, c'era un brasiliano e la finale ha dovuto disputare contro un americano, nazioni che fino a 4-5 anni fa praticamente nemmeno si sistemavano dal punto di vista schermistico. Sul discorso che la medaglia era sorpresa, a me piace dire che era sorpresa per gli altri, io non aspettavo di andare bene, ho molta fiducia nei miei mezzi e sognavo questa medaglia, ma in un certo senso la presagivo, la sentivo, e se avessi dovuto scommettere su qualcuno io avrei scommesso su di me e avrei vinto. Vedi, insomma, la prossima volta non tenerteli in tasca questi 5 euro. La prossima volta purtroppo non si poteva scommettere, quindi magari avrei dovuto dire a qualche amico di scommettere su di me, guarda. O magari al fratello, dillo all'orecchio, ecco, al fratello. Ma sentite, fate così, ditelo a me, ci penso io, per carità. Diciamo, ti faccio scommettere. No, ma non diciamolo neanche per scherzo. Senti, Daniele, invece noi nella prova squadre maschile forse c'è stata la delusione più grande. Ma perché voi fiorettisti avete queste oscillazioni di rendimento, questi alti e bassi così considerevoli? Quel giorno, devo dire la verità, purtroppo è andato tutto storto. C'è poco da dire, perché il gruppo era forte, la dimostrazione era che l'ultima gara di Coppa del Mondo l'avevamo veramente stravinta a San Pietroburgo, battendo sia la Francia che gli Stati Uniti, che sono le due squadre che ci hanno battuto per le Olimpiadi, e tutte e due con punteggi pesanti. Arrivavamo lì da campioni del mondo e da numero uno del ranking, quindi eravamo strafavoriti. Dal punto di vista della squadra, quindi, c'era poco da recriminare, si è detto tanto, si è detto che alcuni uomini che dovevano essere lì non ci dovevano essere, ma sono solo scelte veramente, parole sbagliate, perché tutto il quartetto era quello giusto e quello che doveva essere presente alla gara. Purtroppo quel giorno lì è veramente andato tutto storto dal punto di vista di occasioni, situazioni. Abbiamo veramente sbagliato tutto e purtroppo è capitato nel giorno sbagliato. Enrico, sei anche detto in sede di bilancio, che pure ricordiamo, un oro e 3 argenti, che la nostra spedizione avrebbe potuto fare di più. Ecco, sempre a distanza di tempo, perché il tempo è galantuomo e ci aiuta anche a mettere a fuoco poi i risultati, le prestazioni, anche tu hai questo convincimento oppure? No, io credo che di sicuro tutti noi abbiamo fatto il meglio. Poi è chiaro che nel bilancio manca il fioretto femminile a squadre, che quella è una medaglia che all'inizio dei giochi è sempre garantita. Poi quest'anno con la turnazione delle gare mancava proprio il fioretto femminile e la sciabola maschile a squadre, che sono solitamente due medaglie quasi assicurate. E poi sicuramente manca all'appello la medaglia di Arianna Errigo, che arrivava lì da strafavorita e probabilmente non ha retto il peso della pressione, ma non le si può fare una colpa, perché purtroppo l'Olimpiade è una gara così, non ti dà appello, e quindi probabilmente questo lo ha sentito. Poi è chiaro, come ti dicevo, ci si aspetta sempre moltissimo dalla scherma, quindi quando arrivano 5 medaglie sono poche, mentre negli altri sport se arrivassero 5 sarebbero tutti contenti. E noi siamo contenti di questo, perché vuol dire che ci si aspetta molto da noi, perché molti credono in noi, che siamo molto forti e si aspettano sempre tanto, e noi comunque siamo soddisfatti. Daniele, ti chiedo, so che a livello federale si sta lavorando sul piano delle federazioni internazionali per porre fine a quella che reputo una mostruosità, cioè questa rotazione del calendario olimpico, per cui appunto a rotazione 2 prove a squadre vengono sacrificate. Credi che sia giunto il tempo? Sì, assolutamente, che già sia osceno, che come hai detto tu, proprio assurdo che ci sia questa regola. A Tokyo 2020 tra l'altro toccherebbe al fioretto maschile, quindi mi riguarderebbe in prima persona. Io la trovo una cosa ingiusta, e purtroppo molto spesso le scelte di burocrati a cui interessa veramente poco di sport e di sacrifici che le persone fanno, poi ricadono su quegli atleti che per 4 anni sognano un'Olimpiade, e quella è l'unica occasione veramente per provare ad emergere in sport che guadagnano poco e che hanno poca visibilità, e loro veramente giocano a dadi con quello che è il sacrificio e il lavoro di tanti atleti che hanno quell'occasione lì, e per questioni burocratiche e politiche vengono estromessi da un'Olimpiade. Sì, davvero un'amarezza. Prendiamoci su questo spunto qualche attimo di pausa, poi torniamo insieme qui a Olimpia con Enrico e Daniele Garozzo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Vedete a fondo pedale? Sì, sì. Ed è solo, ma ce l'ha fatta a mettere questa botta di forza, bersaglio. Forza ragazzi, andiamo a prenderci questa finale. Siamo 44, sì! Con doppio, l'Italia è in finale, un'altra medaglia dunque dalla scherma. Ospiti d'eccezione oggi ad Olimpia, la città dello sport, perché qui vicino a me c'è Enrico Garozzo. Ben ritrovato Enrico. Grazie. E in collegamento telefonico Daniele Garozzo. Ben ritrovato. Buonasera, Daniele. Grazie ancora, grazie. Stiamo parlando con Enrico, che è l'argento olimpico a squadre nella prova di spada a Rio 2016, e Daniele, oro nel fioretto. Insomma, abbiamo un po' ripercorso quella che è stata la spedizione azzurra a Rio 2016. Voglio adesso un po' parlare di voi. Chi è che ha trascinato in pedana chi? Vedendo un po' l'anagrafe, forse Enrico che ha portato Daniele. Sono stato io a essere il primo a iniziare scherma, poi mio fratello, per voglia di stare insieme, ha emulato il fratello più grande. L'allievo ha superato il maestro, allora, visto il medagliere di Rio. Sì, ma io non mi arrendo, adesso ci sono 4 anni per preparare Tokyo e non lo lascio sfuggire nel medagliere. Daniele, quindi sei avvisato, attenzione. Sì, che sì, io sottoscrivo tutto. Io, diciamo, per una vita giustamente sono stato identificato come il fratello di Enrico, ma sono orgoglioso di essere stato identificato così e voglio continuare ad essere identificato come il fratello di Enrico. Per me è veramente un grande piacere, è una fortuna avere come fratello lui, mi ha insegnato tanto e continuerà a darmi tanto. Non risolvetela però in qualche duello rusticano, che quello non è più epoca, No, noi più che altro, più che le spade, preferiamo le mani. Le mani, sì. Ah, sì. Ah, quindi se bypassate proprio la sì, cosa. Sì. Sentite, voi siete stati grandi a Rio, così come lo sono stati i campioni paralimpici, e mi viene in mente un nome su tutti, quello di Beatrice Vio, che ha conquistato un oro nel fioretto davvero straordinario. Ecco, direi che ormai non si può neanche più parlare di un collegamento. Queste paralimpiadi sono state vissute proprio come un evento ancor più sportivo. Pensate che davvero, e lo chiedo prima a Enrico e poi a Daniele, sia veramente scattato qualcosa anche nel nostro modo di rapportarci a tutto lo sport? Ma io credo di sì, credo che il percorso sia stato lungo e comunque ancora lo è. Non parlo solo di giochi paralimpici, ma parlo in generale di cultura sportiva nel nostro paese. In questo periodo mi è capitato molto, molto spesso di parlare dell'argomento. Io credo che la cultura sportiva, non riguardante il calcio, in Italia ancora è un po' in ritardo, però devo dire che ogni 4 anni c'è sempre questo ritorno di fiamma, questo ritorno di amore per lo sport a 360 gradi, e quello che ho visto nel mese di settembre riguardante appunto i giochi paralimpici è stato qualcosa di simile, non ancora allo stesso livello dei giochi olimpici, però perlomeno di simile per quanto riguarda anche la rassegna paralimpica. Io credo che questo sia più che giusto. Secondo me arriverà il momento in cui i giochi olimpici e paralimpici debbano essere disputati insieme, proprio per buttare giù queste barriere di cui tanto si parla. Sono assolutamente d'accordo sia sul discorso delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, che secondo me dovrebbero essere svolte insieme appunto per buttare giù tutte le barriere che magari possono sembrare che ci siano oggi, che aggiungere. Il discorso di Beppe Vio proprio ha emozionato tutta l'Italia, è stata veramente forse la medaglia più sentita, comprese le Olimpiadi, da tutti, veramente. Tutti i miei amici mi hanno detto: mai visto quella scrimitrice, quindi sono assolutamente d'accordo, Beppe, fantastica, veramente, è stata la medaglia più commovente che io abbia mai visto. Sarebbe stato bello vederli da vicino, questi campioni, anche a Roma 2024, Sarebbe stato molto bello. Io molte volte mi sono espresso a favore, quando ho potuto, rispetto ai giochi di Roma 2024. Purtroppo è stata questa brutta notizia e ne prendiamo atto, però diciamo che è stata un po' una mala sorpresa il fatto che nemmeno si è potuto avere un confronto tra l'amministrazione di Roma e quello che era i vertici del CONI. È stato un po' un dispiacere, considerando il fatto che queste Olimpiadi di Roma 2024 sarebbero svolte tra 8 anni. Accettare così il fatto di dire che Roma non sarà pronta nemmeno tra 8 anni per gestire un grande evento, secondo me è un po' alzare le mani e ammettere che non saremo mai pronti a competere con le grosse città europee e non. E questo dispiace e fa male, considerando che io vivo a Frascati, in una zona limitrofa da Roma. Quindi è stato un po' un dispiacere vedere questo, però ne prendiamo atto e speriamo che magari nel 2028 un'altra città italiana si candidi e accetti e possa portare avanti la candidatura con fermezza. Torniamo in pedana, perché mi voglio togliere una curiosità, approfittando della presenza di due intenditori. Alle origini della scherma c'erano molti grandi campioni che erano molto capaci in più di un'arma, no? Mi viene in mente il grandissimo Nedo Nadi, l'unico a vincere medaglie olimpiche in 3 diverse armi. Ecco, oggi come oggi invece la specializzazione è tale che questo non è più possibile, oppure ci potrebbe essere ancora questa sorta di polivalenza, Enrico? Io credo che non sia possibile, proprio per quello che dicevi. La specializzazione ormai è fondamentale, quindi quando si fanno intere giornate di allenamento e ancora non sono abbastanza per riuscire a rendere a un certo livello, non potrai mai avere la possibilità di rendere al massimo in due discipline diverse, perché poi sì, la scherma è un unico sport, però poi ha delle linee differenti riguardanti le varie armi, quindi io credo che non sia possibile. Poi se qualcuno arriverà e mi smentirà sarò ben felice, ma per adesso non credo. Daniele, vuoi provarci tu a smentire Enrico, visto che tanto l'oro nel fritto già ce l'hai? Effettivamente, guarda, io l'ho sognato questa cosa di passare magari un'altra arma per veramente restare nella storia del mio sport, però credo che nell'ambito maschile sia veramente un'impresa impossibile. In realtà invece nell'ambito femminile un atleta ci sta provando, Arianna Enrico, che ha vinto già due mondiali di fioretto, è probabilmente la più grande campionessa contemporanea assieme ad Elisa Di Francesca di questo quadriennio, per non parlare poi di quello precedente con la Vestali, insomma hanno vinto da sempre, e Arianna sta provando a passare a sciabola, soprattutto le prossime gare credo che le farà di sciabola, quindi lei, se ci riuscirà, lei sarà credo la prima e probabilmente l'unica che possa fare questo salto proprio per il talento che dispone. Parlavo proprio di lei nel momento in cui dicevo che magari ci sarà qualcuno che a breve mi smentirà. Parlavo proprio di lei. Mio fratello è stato bravo a sottolineare il discorso maschile e femminile. Io credo che sia una differenza importante in questo momento nella scherma. Ma pensate che Arianna lascerà il fioretto o è semplicemente... Io penso che porterà avanti, anzi so che porterà avanti entrambe le carriere. Secondo me Di Fioretto continuerà a essere l'atleta, la super campionessa che conosciamo, che continuerà a fare sprocelli in Coppa del Mondo, mondiali, agli europei. Diciamo la smetta sarà una grande scommessa, perché si è già messa in gioco diverse volte quando i carabinieri la chiedevano alle campionate italiane a squadre. Dal punto di vista individuale non si è mai messa in gioco, e portarsi poi soprattutto nelle gare di Coppa del Mondo sarà un'esperienza completamente diversa e soprattutto inedita, perché come dicevi tu nessuno è mai riuscito a farlo, nessuno l'ha mai fatto, soprattutto nell'era moderna. Sarà da vedere, è una sfida che a me personalmente mi incuriosisce molto. Non vi stuzzico sul calcio, perché so che anche qua Daniele ha un leggerissimo vantaggio, visto che lo scontro diretto tra lui juventino ed Enrico Laziale già si è svolto e almeno all'andata ha sorriso Daniele. Vi chiedo uno sguardo sul futuro. Obiettivo immagino Tokyo 2020 come Olimpiadi, ma più a breve, Enrico? Sul futuro adesso riparte la stagione di Coppa del Mondo, le prime gare saranno a fine ottobre. Per quanto mi riguarda, io ho preso una pausa un po' più lunga rispetto al solito. Dopo un quadriennio olimpico ho avuto bisogno di tirare un po' il fiato, quindi punto ad arrivare in forma per la fine dell'anno solare, e poi ci saranno i campionati europei, i campionati del mondo, che saranno il clou della stagione, si svolgeranno tra giugno e luglio, quindi chiaramente l'obiettivo del prossimo anno saranno quelli. Daniele, temi che quell'oro olimpico possa un po' arrotondare la lama del tuo fioretto? Perché poi si dice si continua a aver fame, si continua a aver voglia, ma quando a casa si apre quel cassetto o quella bacheca e quella medaglia ti illumina la stanza. No, in questo senso purtroppo non ho ancora potuto dimostrarlo, ma spero di poter dimostrare presto che io, come dicevi tu, ho ancora la stessa fame. In fondo ho 24 anni e ho ricominciato ad allenarmi un mese dopo aver vinto le Olimpiadi, e credo che sia stato uno dei primi in assoluto a essere già in pedana e aver già ricominciato ad allenarmi. Le prime gare saranno il 7 ottobre, con la prima gara nazionale, e poi quella dopo sarà il 21 ottobre al Cairo, la prima gara importante di Coppa del Mondo. Io conto già di essere in forma lì e di dimostrare che ho ancora tanta voglia e sono pronto ancora per vincere. E allora, quello che ci auguriamo tutti per entrambi, da parte nostra, il ringraziamento a Enrico Garozzo e Daniele Garozzo per essere grazie stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Grazie mille. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.